si sente tutto, anche Nico che ordina. Uno che è andato a fare la pipì, si sente tutto. Va bene. Aspettiamo Nico? No, non aspettiamo Nico. Non lo so. Ma sì, dai, guardiamolo mettendogli un po' di pressione. Non però. Se ne accorge mai. Adesso lo guardiamo tutti. Continua a essere preso nella scelta della sua birra. Eh? Questa volta niente immagini. Sì, c'è stato un disguido tecnico alla regia. Ah, ok. Prossima sì, volta, okay, pensavo che dietro. Non potessimo farci delle foto. Anch'io all'inizio ho pensato che si riferisse a noi. Ok. Infatti dice no oggi, Giulia diceva no oggi no, oggi niente. In realtà oggi che sono abbronzata poteva essere il momento esatto, giusto. Esatto, ma io ho già sbinzagliato Nicolò. Che... Non è vero. Ma almeno a febbraio, febbraio di quest'anno. Vabbè, però scusate adesso, cosa vuol dire essere pallido? Lei però viene da Cadore. Sì, ma lei viene da Pieve di Cadore adesso. Scusa, ma guarda, anche se anche da lei è uguale. Non era questione geografica. Continuiamo ad aspettare Nico. Arriva. Stiamo aspettando te. Giusto per non farti sentire pressione. Va bene, è ora. Iniziamo. Allora, ciao. Mi presento io perché in realtà ci stiamo dicendo che Giulia è già famosa da queste parti. Allora, io mi chiamo Elisa, piacere di conoscervi. Nella vita faccio tante cose, in particolare diciamo che ultimamente mi sto occupando tanto di musica, di no profit e di comunicazione, ok? Non sono qui in veste di queste cose in verità, ma perché il mio percorso ha incontrato quello di Giulia in più volte e tutte le volte è finito in grandissime chiacchierate, no? Ore e ore di chiacchiere e poi tutte le volte sempre, no vabbè ma adesso però dobbiamo... Adesso dobbiamo andare, però la prossima volta. E quindi sono contenta che oggi potremo fare questa chiacchierata, riportare queste nostre chiacchierate allargate, quindi siamo qua in un po' e possiamo parlare tutte insieme. Allora, io oggi sono un po' contenta perché sono un po' la guida all'interno di questo viaggio che è lo Zaino Blu, ma in realtà siamo qui anche per testare qualcosa che potrebbe avere un futuro, quindi queste chiacchierate sui viaggi, sul mondo, sulla vita e sulle cose, cioè la prendo proprio base, ok? L'ho detto che è una filosofa. Potrebbero avere un seguito, con Giulia ci stavamo proprio dicendo che ci piacerebbe poter avere insomma un futuro come duo che parla e riflette e quindi insieme poi capiremo che strada potrebbe prendere insieme anche tutte quante questa sera. Detto questo, dicevamo Giulia non ha bisogno di presentazioni, lo Zaino Blu non ha bisogno di presentazioni. Avete già sentito tutti. Vi dico un po' che cosa ci ho visto io all'interno di questo libro che Giulia mi ha gentilmente omaggiato e poi da lì cominciamo a riflettere insieme, vi dico un po' il taglio che avevamo pensato di dare a questa chiacchierata di stasera. Quando pensavo a come parlare di questo libro, pensavo che questo è proprio un libro straordinario, ok? E con straordinario ho scelto una parola ad hoc, nel senso che non è casuale, ok? Perché se pensiamo allo straordinario è quello che è extraordinario, quello che sta al di fuori dall'ordinario. E in questo libro, come negli altri di Giulia, insomma, come nei suoi racconti, eccetera, ci sono racconti, posti, persone, vicende, occasioni, viaggi che sono straordinari, nel senso che sono al di fuori dell'ordinario che io personalmente vivo tutti i giorni, ok? Ma questo mi ha fatto riflettere perché allo stesso tempo ho pensato che questo straordinario in realtà è poi l'ordinario di qualcun altro. Ci sono persone nel mondo che vivono le cose che Giulia, giornalmente, le cose che Giulia racconta nei suoi racconti, nei suoi libri. E ho pensato che alla fine l'ordinario di tutti è questa collezione di straordinari possibili, in qualche modo. Quindi oggi l'idea che ci eravamo fatte era proprio di capire questo, cioè di provare a raccontarci degli straordinari possibili, ok? Vicende, storie che Giulia ha incontrato e che sono proprio l'emanazione di luoghi diversi, di paesaggi diversi, di ambienti diversi, di persone assoggettate a politiche differenti, perché poi il tema della politica è un tema che tornerà nella chiacchierata di oggi, non come posizione politica, ma come politica vissuta, cioè l'effetto che alcune politiche hanno sulle persone, sui corpi, dicevamo prima, ok? Quindi mi rendo conto che il prequel è importante. Speriamo di essere all'altezza, Giulia, sicuramente io sono in dubbio, ma su di me, ma vediamo. Per cui il punto di partenza è, secondo me, un racconto molto bello che c'è all'interno dello Zaino Blu, che sarà un po' il nostro punto di partenza e un po' il nostro punto di arrivo, che è quello sul viaggio in Israele e Palestina, che hai fatto quando? Prima di tutto diamo una collocazione temporale. 2019, ok. Novembre, dicembre, non ero abbronzata, giuro. Però poi dopo tornata. Allora, novembre e dicembre del 2019 è una terra difficile, diciamo. Io e Elisa ci siamo interrogate se portarla o non portarla, perché può dare adito a diverse interpretazioni, a discussioni, però alla fine ci siamo dette, vabbè, ma se non ora quando? E quindi proviamo a portarla. Con un'ottica che, innanzitutto, come ha detto anche Elisa, la politica c'entra, perché la politica c'entra ovunque e in un territorio come quello di Israele e Palestina connota la vita quotidiana delle persone in maniera particolarmente accentuata. Quindi con un piccolo disclaimer iniziale nel quale noi diciamo, né io né lei siamo esperte di questioni politiche e geopolitiche dell'area del Medio Oriente, e in più quello che io riporto è quello che io ho vissuto nel 2019 in una terra molto mutevole, dove tutto può cambiare molto velocemente. Quindi quello che io riporto è il mio vissuto e il mio quotidiano di una fetta di mondo particolarmente, adesso siamo in pochi quindi si può anche dire incasinata, anche se non è una parola, no, certo, particolarmente alta. Quindi è il mio aver viaggiato lì in maniera indipendente, quindi senza niente di organizzato, senza il pulmino che ti porta da nessuna parte, senza che nessuno ti dica dove stai andando, anche proprio fisicamente dove stai andando, e ripeto, il mio esserci andata con gli occhi aperti, senza nessuna pretesa di sono arrivata, ho capito, o sono qui e adesso capisco. Io mi sono chiesta anche da dove iniziare questa narrazione e ho pensato di iniziarla raccontandovi proprio quello che io ho visto quando sono arrivata lì, cioè quello che vede una persona quando arriva. Io sono arrivata a Gerusalemme con l'idea di stare sia in Israele sia in Palestina, che già è una scelta abbastanza non popolare, mettiamola così. Allora, mettiamola così, è una scelta non popolare, sì. Allora, innanzitutto per andare in Palestina da Israele ci devi passare. Ok. Perché la Palestina è uno dei, penso, pochissimi paesi al mondo nel quale non puoi andare direttamente. Ok. Cioè comunque una frontiera la devi fare. Lo Stato di Palestina non ha un aeroporto e non ha uno sbocco al mare, quindi devi passare da qualche altra parte per, certo, forza. E hai due possibilità a seconda del passaporto che hai, diciamo. Un passaporto Schengen ti dà due possibilità. La prima possibilità è volare in Israele, all'aeroporto di Ben Gurion, e da lì poi decidere di entrare in Palestina. E questa possibilità nel 2019 era preclusa ai palestinesi, perché, okay, ai palestinesi era vietato l'accesso all'aeroporto israeliano. La seconda possibilità, che invece è consentita, oltre che a quelli con il nostro passaporto, anche ai palestinesi, è entrare dalla Giordania. Ok. La Giordania confina territorialmente con lo Stato di Palestina, e io sto parlando solo di Cisgiordania, non sono andata a Gaza, quindi tutto quello a cui io faccio riferimento è solo la parte della West Bank, della Cisgiordania. Che uno dice, va bene, allora io passo dalla Giordania, la Giordania storicamente è uno stato amico, amicissimo della Palestina, quindi lì è tutto più semplice, relativo, perché comunque devi passare la frontiera giordana, passi per via di terra, però hai anche il checkpoint israeliano, quindi comunque il controllo, okay. Linee 3, sì, perché okay. Hai la Giordania, Israele e poi l'ingresso in Palestina. E questo è solo, fra virgolettissime, l'ingresso in Palestina. Esatto, esatto. Ed è l'unico ingresso in Palestina consentito a un palestinese al 2019. Perché poi c'è anche il passaggio a Israele dopo. Allora, se io sono entrata prima in Israele e poi sono andata in Palestina. Se invece uno passa dalla Giordania, Giordania, tutti i checkpoint, Palestina, e poi da lì entri in Israele. Devo dire... Entrare in Palestina è stato molto semplice, okay. È stato addirittura quasi che all'inizio non te ne accorgi, nel senso che io ero a Gerusalemme, che è una città in cui si incontrano volti di tutti i tipi, tradizioni di tutti i tipi, religioni di tutti i tipi, e Gerusalemme è divisa in Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest. Gerusalemme Ovest è israeliana ed è più piccola territorialmente, Gerusalemme Est è palestinese ed è molto più estesa territorialmente. Okay. Io arrivo con un pulmino che mi portava dall'aeroporto, quindi che mi lascia in Israele Ovest, perché l'aeroporto è, scusate, Gerusalemme Ovest, quindi Israele, e da lì... È molto semplice passare a Gerusalemme Est, nel senso che, fatte salvo alcune fasce orarie, che sono quelle della preghiera del venerdì e di qualche altra preghiera musulmana, lì non ci sono frontiere, lì non ci sono barriere. Okay. Ci sono i militari che ti controllano, ma non ti controllano, ci sono i militari in assetto militare che guardano, che presidiano. Okay. Quindi lì non c'è controllo di documenti, non c'è... E quindi lì è stato anche molto inaspettato, nel senso che camminando nel souk di Gerusalemme, che è come molti souk del Medio Oriente, un souk magnifico, molto labirintico, molto antico, a un certo punto ti trovi in una zona in cui io ho avuto la netta sensazione di essere a Damasco, improvvisa. Ok. E quindi mi sono detta, no, aspetta, qui non è più come era mezz'ora fa, è cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. E poi effettivamente quella zona si chiamava, c'era una porta, perché sono le mura, quindi con varie porte, quella zona era la zona della porta di Damasco. Ok, e... c'era un riferimento allora. Ok. Okay. E lì eravamo chiaramente entrate in Palestina, nella zona palestinese, in cui c'erano... Da che cosa si capiva? Dalla sovrabbondanza del souk, in Palestina, come in gran parte del Medio Oriente, si vive all'aperto, quindi tutti quelli che sono i negozi sono, tutti no, però gran parte dei negozi sono botteghe che sono in strada, si vive tantissimo in strada, e quindi c'erano venditori di qualsiasi cosa in strada, donne affaccendate, tendenzialmente la maggior parte erano velate. Però a questo punto la domanda è, sì, ma di là che cosa avevi lasciato? Mm-hmm. A ovest che cosa avevi lasciato? La visualizzazione mia di quando sono arrivata è stata quella di un paese molto giovane e armatissimo. Mm-hmm. Armatissimo nel quotidiano, oltre che quelli che presidiano nei punti strategici. Allora, come penso sappiano tutti, in Israele il servizio militare obbligatorio dura 3 anni e si fa subito dopo le superiori, quindi ragazzi di 19 anni o giù di lì. Cioè, tra i 19 e i 20 e qualcosa. Sì. Allora, adesso iniziano a essere un pochino di meno, nel senso che adesso nel 2019. Il governo aveva iniziato a rendersi conto che erano anche troppi rispetto alle necessità, e quindi aveva dato la possibilità, diciamo, di, io lo traduco come un servizio civile, okay. in cui donne e uomini, maschi okay. e femmine, lo fanno tutti, in cui molti, soprattutto le femmine, vanno a fare altre cose, altri tipi di lavoro che possono essere lavori socialmente utili okay. o anche quello che poi può diventare una professione. Una mia amica ha fatto la guida turistica per 3 anni, ha preso il patentino e adesso fa la guida turistica in Israele. Quindi quei 3 anni ha lavorato per lo Stato, però sotto forma di, certo, di guida un turistica. Un servizio pubblico. Che esatto. Okay. Ok. Quello che però succede è che durante tutto l'iter scolastico, soprattutto negli ultimi anni prima dell'ingresso nel mondo del servizio militare, c'è una fortissima propaganda nelle scuole e nelle classi. Quindi c'è un alto tasso di competizione, ma tu in che divisione vai? Ci sono le divisioni più fighe e le divisioni di serie B, ci sono le divisioni più combattive e quelle considerate un po' più da pappamolli. Quindi c'è questa alta competizione, i ragazzi vengono spronati a cercare di andare nelle divisioni più altisonanti. Certo. E questo che cosa genera? Che quando poi tu inizi a fare il servizio militare, ovviamente cosa ti fanno? Ti danno la divisa, e nella divisa è compresa l'arma d'ordinanza, quindi sono tutti vestiti di color khaki con il loro fucile, che a quel punto per buona parte dei ragazzi diventa uno status symbol. Okay. E quindi loro con quello vanno in giro sempre. Quindi la mia visione di questo, del mio arrivo in Israele è stata: scendo dal mio pulmino, mi fermo in una stazione, nella stazione degli autobus dove mi ha mollato il pulmino, cerco di capire vagamente dove sono girata, già che ci sono mi prendo un caffè, mi siedo a prendere il caffè, mi sento qualcosa che mi punta sulla schiena, il mitra di quello dietro. Ok, ok. Che non è uno che sta controllando alcunché, che si sta bevendo un caffè come me. Quindi sì, l'impressione visiva del mio primo giorno è stata, da un lato, tutto questo, questa normalità nell'andare in giro armati, in cui c'è scena, e dall'altra parte il casino del souk con tutti quelli che urlano, sui quali poi io ho fatto una mia considerazione, perché lì, quando mi sono detta, ma qui sono a Damasco, però mi sono anche detta, no, però in realtà sono nel mio mercato del martedì mattina di Milano, perché in realtà avevano la stessa cadenza dei venditori del mio mercato del martedì. E io mi sono detta, ma in effetti quelli che io quando vado a comprare le arance, che di qua sì, ho comprato le arance dagli arabi, secondo me sono palestinesi, perché ci avevano tutti la stessa... Secondo me sono palestinesi che vivono in Palestina e palestinesi che vivono a Milano, però mi sembrava proprio lo stesso tipo di... Interessante, questa è una cosa che magari approfondiremo, andremo a chiedere, no? In tutti i mercati locali le provenienze, non con l'obiettivo di giudicare, ci mancherebbe. Però già stai dicendoci delle cose molto interessanti, nel senso che ci sono nel mondo tutta una serie di luoghi, ok, di abitudini profondamente diverse dalle nostre. Cioè, questo è il tema della militarizzazione comune, no? Che è questione di adolescenza quasi, sì, ok, che diventa rappresentativo di un adolescente, piuttosto che dall'altra parte basta sorpassare, oltrepassare una linea immaginaria, perché di fatto quello è, e ti trovi catapultato in un universo completamente differente, ok? Qui nel caso coesistono entrambi nella stessa città, questo è proprio l'elemento incredibile, no? E nel libro racconti molto bene in quel proprio... È come se quella linea immaginaria trasparente, no, che divide i due territori diventasse molto visibile nel racconto che ne fai, perché proprio anche nella vita che le persone conducono tutti i giorni, tu hai conosciuto delle persone direttamente sia da una parte che dall'altra, e la loro esistenza è profondamente influenzata da tutti questi aspetti, e si sente proprio tanto, no, il passaggio da una parte all'altra, ma tra l'altro proprio il passaggio. Ce lo vuoi raccontare? Cioè quel viaggio che ti ha portato da una parte all'altra? Allora, ne ho fatti parecchi, perché ne ho fatti un po' avanti e indietro. Quello a Gerusalemme, da Gerusalemme Ovest a Gerusalemme Est, è stato anche abbastanza ridicolo, perché avevamo una cartina, eravamo in due, avevamo una cartina stampata, e nella cartina c'erano tutti i luoghi sacri di Gesù, perché sei a Gerusalemme, certo, quindi ti danno queste carte. E c'era la cartina con il punto della crocifissione. Okay. E allora noi all'inizio volevamo andare a vedere dove, dove fosse. La cartina era un po' approssimativa. Quindi noi cercavamo il punto della crocifissione e mentre lo cercavamo ci siamo accorte che eravamo a Gerusalemme Est. Noi sembrava che fosse la fermata degli autobus. E quindi noi siamo rimaste lì con la cartina dicendo: ma è qui che l'hanno crocifisso, hanno fatto la fermata degli autobus di Gerusalemme Est. Qui sotto la penisilina. No, la penisilina non c'era, non adesso, c'era. Non chiedere troppo. Ok, ok, ok. Quindi, ma era o non era una fermata degli autobus? Era una fermata degli autobus, ed era la fermata degli autobus che poi a noi ha portato più verso l'interno della Palestina. Dove, allora ripeto, l'ingresso è stato semplicissimo, cioè è stato semplicemente così, questo passaggio, la prima volta inconsapevole, perché siccome proprio non c'è una barriera, ci sono questi ragazzi armati che ti guardano, ma ce ne sono così tanti in giro per il paese. Che potrebbero essere al bar come lungo il confine, insomma. Okay. Perché in altri punti ti è proprio capitato di trovarmi davanti al muro, ma a Gerusalemme no, perché Gerusalemme è veramente un posto pazzesco dove... E ci saremmo anche grandemente semplificate la vita se nei nostri avanti e indietro avessimo continuato a usare la tecnica Gerusalemme Est, Gerusalemme Ovest, perché sarebbe stato più facile rispetto a tutta un'altra serie di passaggi, ma noi non l'abbiamo fatto. Ma non l'abbiamo fatto perché abbiamo ragionato, cioè non ci volevamo complicare la vita, non è che noi andiamo a cercarci la complicanza apposta, ma è che noi abbiamo ragionato in termini occidentali, nostrani, non so come definirli, e cioè se la zona è fatta così, Gerusalemme è qui, io sono qui in Palestina e voglio andare qui, io non faccio così e così, perché a lungo io faccio la strada più corta. E lì in mezzo cosa c'è però? Cosa succede? Ma questo lì non vale. Ok. Ed è stato questo, noi ce ne siamo rese conto in corso d'opera, perché lì in mezzo c'era il muro, c'erano delle strade che corrono a diverse velocità, nel senso che il paese è proprio diviso tecnicamente in strade che hanno tre sigle diverse, che con grande fantasia sono le strade A, B o C. E immagino possano essere percorse però da guidatori A, B o C. Esatto, esatto. E chi sono A, B o C? Allora, le strade a lunga percorrenza, lunghissima, vabbè, è tutto molto piccolo, però diciamo le strade a più lunga percorrenza sono tutte israeliane. Ok. Poi ci sono le strade A, che sono le strade palestinesi, dove possono andare i palestinesi, che sono quelle nelle zone di insediamento palestinese e limitrofe. Poi ci sono le strade B, che sono le strade una cerchia un po' più ampia, quindi siamo sempre nei territori palestinesi, ma una cerchia un po' più ampia che quindi può sfociare anche nella zona israeliana, e in quelle possono andare sia gli israeliani sia i palestinesi. Ah, nelle A gli israeliani non ci possono andare. Nelle C invece possono andare gli israeliani. Ok. Allora, tutto questo ovviamente non corrisponde a nessuna mappa scritta, perché tutto questo non esiste in nessun possibile... Okay, non è codificato per davvero in qualche ma modo. Ma perché non esiste a livello di organizzazione mondiale di niente, cioè è contro, oltre a essere contro qualsiasi logica, è anche contro qualsiasi possibile ordinamento vigente. Certo. Ci sono dei cartelli che te lo indicano, quindi c'è un cartello quando stai andando da C verso B, cioè quindi da Israele verso Israele-Palestina, per intenderci, ci sono dei cartelli che dicono: israeliani, state attenti. Ok, ok. Perché sei in zona israeliana, quindi è Israele che ti dice di stare attento. Quando passi da B ad A, c'è un cartello che ti dice: vietato agli israeliani. Ok. O comunque pericolosissimo per gli israeliani. Come viene vissuto e ecco, per questo divulgato nel quotidiano? Allora, nel quotidiano, innanzitutto, se io ho una strada nella quale non posso andare, come fai tu che mi controlli, chiunque tu sia, come fai tu che mi controlli a sapere se io sono un israeliano che sta andando in Palestina? Certo, oppure no? Certo. Allora, un'altra delle cose completamente nonsense è che lo Stato di Palestina, che non è riconosciuto dalla maggior parte degli stati mondiali, ha le targhe della macchina. Ok. Quindi, che sono bianche, la targa è bianca. Quella israeliana, le macchine israeliane hanno la targa gialla. Quindi quello che viene detto nella vulgata non è strada A, strada B, strada C, è targa gialla o targa bianca. Okay. Loro sanno perfettamente, hai targa gialla, no, là non ci puoi andare, hai targa bianca, allora ti devi fermare qui. Quindi tutto è giocato su il colore della targa della tua macchina. E quello palestinese c'è scritto PAL, ed è una targa che ha un raggio d'azione limitatissimo, certo, okay. Che esiste solo lì, anche perché comunque non potendo loro sforare dalla zona C, neanche da dire vado si prende in Libano, no. Quindi c'è tutta questo andirivieni di targhe di diversi colori, in cui poi se noleggi una macchina, mi hanno detto che la noleggi in Israele, perché in Palestina mica può, cioè non esiste la noleggio in Palestina. Mi hanno detto che se noleggi una macchina con targa gialla in determinate zone palestinesi puoi andare. Io, non avendo noleggiato una macchina, ma avendo scelto i mezzi pubblici, non le piace complicarsi la vita, mi sembra evidente che sì, effettivamente sì, è vero, decisamente. Io, tra l'altro, scusami, ripenso al racconto che c'è all'interno del libro, Tel Aviv, giusto? Sì. È raccontata lì. Sì. È raccontata come una città giovanissima, sì, piena di tecnologie. Più di Gerusalemme. Esatto, sì. E mi sembra pazzesco, cioè nella mia testa, ok, di persona nata e cresciuta a Varese, nel mio caso, perché arrivo da lì, attualmente vivente sul Lago Maggiore, quindi comunque bene, mi è andata molto bene, ok? Io faccio molta fatica a fare una cosa, cioè a capire come tutte queste cose che stai dicendo possano coesistere, ok? È tutto pieno di e, non c'è un o, no? Nella mia testa c'è, sei una città piena di innovazione, piena di giovani, con tanta tecnologia, questa cosa non può essere unita da una e con tutto quello che tu mi stai dicendo adesso. Ok, c'è proprio un limite, mi rendo conto, mio personale, perché la mia testa c'è o è quello o è quell'altro, e invece il potere, no, di viaggiare, di conoscere, è mettere una e fare pace con questa cosa e dire esiste, questa roba esiste, e anche se io faccio fatica a rendermene conto e ad accettarla, c'è una e in mezzo, cioè sia questo che quell'altro. E quindi mi viene in mente la ragazza, forse, da cui eravate ospiti, sì, che dice l'architetto. Io non sono... Esatto, architetto che stava tirando insieme tutto l'appartamento, cioè storie comuni, no, di una vita come la mia, ok? Che però ti dice, guarda, Tel Aviv è a pochi chilometri da qui, 70 chilometri, ma io non ci sono mai stata. Perché non poteva, perché lì poi tra le molteplici variabili, allora ci sono moltissimi palestinesi che vanno a lavorare in Israele, perché si guadagna di più e perché il mercato del lavoro è molto più sviluppato, essendo tutto moderno, essendo... A me ha ricordato, per esempio, il personale medico, ma a cifre altissime, tipo il 40% degli infermieri che lavorano in Israele sono palestinesi. Okay. Quindi che cosa succede? Succede che il governo israeliano decide che tipo di documento dare ai palestinesi. Il documento ha due colori diversi, questa cosa dei colori, ma perché è facile, è immediata, immediata, vedi subito la differenza di colore, sai subito da che parte e come relazionarti con la persona che hai. Quali procedure attivare? Esatto. Quando prima parlavamo di politica, è questo esatto. Che intendiamo, no? Le politiche, le procedure, ok? Non le posizioni politiche, ma quello che poi effettivamente nella vita delle persone impatta totalmente, no? Dicevi, scusa. Quindi questi documenti sono o blu o verdi. Adesso potrei sbagliarmi sul colore perché non me lo ricordo, però diciamo che il blu ti dà il permesso di entrare in Israele, il verde no. Ok. Quindi se tu hai il blu, facendo tutta una serie di passaggi più o meno scomodi a seconda del tragitto che si deve compiere, però puoi andare di là a lavorare e puoi andare di là al mare, a farti un bagno al mare. Se hai quello che aveva questa mia amica, che pure era un architetto, però a lei Israele il passaporto del colore giusto non l'ha dato, quindi lei dice: va, io vedo il mare là davanti, non ci sono mai andata, non ci posso andare. Ho detto giusto i colori? Guarda, li stavo cercando, ma in realtà poi ho trovato un sacco di altre cose belle che mi stanno facendo riflettere, quindi prego, continua, ti citerò dopo. Vai. Poi in tutto questo succede anche che se un palestinese ha bisogno di andare all'estero, la sua unica chance è passare dalla Giordania. E quindi ci sono moltissimi palestinesi che però nel momento in cui la Giordania ti fa entrare, perché la Giordania è uno stato amico, però nel momento in cui tu devi andare a Parigi o a New York, non lo so, scendi dall'aereo, sei in aeroporto, sei al controllo doganale e fai vedere il tuo passaporto palestinese, dove vai? Quindi la Giordania dà anche un passaporto ai palestinesi che lo chiedono. E quindi quello che succede è che ci sono moltissimi palestinesi che hanno un doppio passaporto. Uno che di fatto è un passaporto a oggi simbolico, che è il passaporto dello Stato di Palestina, e uno che è il passaporto che ti serve se, ma anche molto banalmente, se hai bisogno, certo, di cure mediche specialistiche che non ci sono in Palestina. Certo. Guarda, a questo proposito, permettimi di citarti. anche sottolineato, io sono una di quelle che sottolinea sui libri, se qualcuno di voi dà fastidio mi dispiace, ma rivendico il diritto di farlo. Dici: da queste parti c'è la maggior concentrazione mondiale di doppi passaporti, ma questo anziché far prendere il volo alla libertà è l'istantanea di una situazione braccata. Perché poi c'è l'altro lato della medaglia, che è il lato degli israeliani, che hanno il passaporto israeliano, con il quale in determinate parti del mondo non possono andare, certo, non possono entrare, non sono tantissimi gli stati, però ci sono. Ovviamente tra questi c'è anche la Palestina, naturalmente. Siccome molti israeliani, la maggior parte degli israeliani, hanno discendenze le più variegate, dalla, certo, Polonia allo Yemen, ce ne sono molti che hanno il doppio passaporto, perché hanno il passaporto, diciamo, di famiglia, anche le seconde generazioni possono, certo, tenere il doppio passaporto, e hanno il passaporto poi israeliano. E gli israeliani magari se lo giocano, se proprio hanno voglia di andare in Malesia, in Iran, secondo me non ci vanno, ma in Palestina non ci vanno. E io in parte lo capisco, perché l'ho scritto anche lì, io ci ho pensato molto, c'è questo amico che ci ha ospitato in Palestina e in Israele, che aveva il passaporto israeliano e il passaporto ungherese, sì, che mi ha chiesto: raccontami la Palestina. E io, in maniera probabilmente troppo impulsiva, gli ho detto: ma scusa, vacci, è qui, sono 70 km, vai, ci vogliono 3 ore per fare 70 km, però, sono però si può fare. Però si può fare. E lui mi ha detto: sì, ma se me lo leggono in faccia e non è il momento giusto? E io non mi sono sentita di dirgli: ma no, dai, figurati. Perché, e se glielo leggono in faccia non è il momento giusto? Loro cosa ne sanno che questo mio amico è uno che ama arrampicare, che è la persona più tranquilla e pacifica del mondo? E quindi lui mi ha detto: a tutt'oggi no. Quindi ci sono un sacco di israeliani con doppio passaporto, un sacco di palestinesi con doppio passaporto e un sacco di israeliani e di palestinesi che non si incontrano. Beh, questo proprio mi sembra la dimostrazione, no, palese di come poi il conflitto sia totalmente e completamente interiorizzato ormai, sì, cioè fa parte a tutti gli effetti della vita, del... anche quando è silente, anche quando è sopito, vabbè, quando è meno rumoroso del solito, fa parte completamente, sì, della vita, fa parte dell'agire quotidiano, del pensiero, orienta quotidiano, sì, le azioni delle persone, sì, perché se vado di là, ce la faccio, non è il momento giusto, quella è un'azione negata da qualcosa che è stato interiorizzato. Tanto quanto vedo il mare da lontano, dai miei 70 chilometri, poi questa mia amica abitava in alto, quindi lo vedeva proprio. Fisicamente c'era. Ma non ci posso andare, perché ho il passaporto del colore sbagliato, e farla in maniera illecita, no, per lo stesso motivo del mio amico, perché se poi... È troppo rischioso, certo, certo. Wow, ok, wow. Io, Giulia, se sei d'accordo, proverei a spostarci, sì, geograficamente. Sì. Io chiedo a Nico se mi lancia l'acqua. Certo. Grazie. Vediamo se riesco anche a prendere... No. Già, proviamo ad andare un po' più ad est ancora. Sì, perché tanto a ovest non ci sono mai andata. Però tu sei andata talmente tanto est che sei finita a ovest. Quindi arriviamo anche lì, ok? Spostiamoci un pochino più a est. So che c'è un altro territorio che ameresti raccontare. Molto molto più a est o scegli in tu. Parte scegli più tu. A est? Io ti seguo. Scegli tu. Allora, a me piacerebbe raccontare dello Sri Lanka, non tanto dello Sri Lanka in quanto tale, ma di una situazione nella quale mi sono trovata lì. Stavolta non ci ho messo niente di mio, cioè lì mi è proprio andata così e basta. I guai mi trovano, ok. I nodi mi trovano. Io ero nello Sri Lanka e dovevo andare in Australia. E quindi siamo sempre sul tema frontiere e passare da un mondo all'altro. Sì, okay. Sì. E quindi ho fatto... I famosi e. Fatto domanda per il visto. Compilato tutta la mia domanda online e ho fatto domanda per un visto da 6 mesi. Che è un visto un po' più del visto turistico, okay. Che è il visto da 3 mesi, e quindi che aveva tutta una procedura un po' più complicata, tutta una serie di moduli da compilare, e i soldi che hanno voluto naturalmente in anticipo. Quindi mando io e manda Francesca. Dopo 2 giorni Francesca riceve il suo visto e io no. Qualcuno sa già la storia. No, no, no, no. Troppi giorni. Allora dopo facciamo dall'altra parte, no? la vicenda dall'altro l'ansia aspetto. Dall'altra parte. Esatto. Niente, io mi ritrovo con questa lettera dell'immigrazione australiana che mi dice: signora, abbiamo bisogno di fare dei controlli successivi sulla sua posizione e delle analisi mediche. Allora, sappiamo che l'ingresso in Australia è uno dei più rigidi. Rigido, ok. Ovviamente potevamo evitare... No, perché io volevo dire, c'è un passaporto di Schengen e questi ridevano tanto quanto ridevano a Ben Gurion quando sono atterrata in Israele. Allora, tralascio tutti i dettagli della situazione, perché non è sul dettaglio che mi vorrei concentrare. La mia interpretazione è che si sia trattato meramente di sfortuna in percentuale. Cioè, ogni tanto qualcuno decidono di controllarlo e gli rompono un po' le scatole, invece agli altri va più liscia. E a me è capitata sta cosa. La cosa che ha reso tutto un pochino più complicato è stata: adesso me la devo sfangare nello Sri Lanka. Perché io mica tornavo in Italia per Sri Lanka, di cui mi scadeva il visto. Perché la richiesta era di approfondire delle visite mediche proprio. Sì, okay. Sì, il mio iter medico. A un certo punto parlavano addirittura dell'oculista e dei raggi X del petto. Però era tutto un messaggio, non dico ambiguo, però che si capiva o non si capiva. Poi non rispondevano tanto a queste mail. Insomma, ci è voluto un giorno intero con l'aiuto di una persona incontrata per caso, ma... Per fortuna assolutamente sul pezzo in materia immigrazione in Australia, e quindi riesco a capire che in tutto lo Sri Lanka, ovviamente non dove ero io, ma vabbè, c'è un unico centro che è quello ufficiale per fare queste visite, perché non è che vai dall'oculista, da un oculista qualsiasi dello Sri Lanka e gli dici: vabbè, controllami la vista, spedisco il risultato in Australia. No. Immagino si tratti di una clinica che sia convenzionata. Esatto, con una, okay. Esatto. Si trattava appunto di quest'unica, diciamo, struttura, perché clinica mi sembra una parola eccessiva. Era un edificio, questo sicuramente sì, ok. Qui niente, mi danno un appuntamento, io mi presento, dovevo portare anche tutta una serie di documenti che non si è filato assolutamente nessuno, quindi tutti questi sbattimenti, documenti, prendi il documenti che immagino dovessi recuperare dall'Italia. In parte, tipo quello dell'oculista non l'ho mai recuperato in vita mia. Ma quello che è successo è che per questa sfortuna del caso io mi sono ritrovata a fare l'iter che facevano tutte le persone che volevano emigrare in Australia. Okay. Cioè, io tecnicamente non ero in un processo migratorio, io andavo lì per 6 mesi, punto. Però la mia casistica non c'era. Quindi un abitante dello Sri Lanka che volesse emigrare, non andare in vacanza, emigrare in Australia, doveva fare quell'iter, ok. Che era un iter che aveva già dei pregressi, di tipo lavorativo, cioè erano già tutte persone che erano pronte ad andare, che avevano già o un contratto o un PhD o qualcosa da fare all'università, quindi non erano delle persone che partivano come potevano essere i nostri emigranti che andavano negli Stati Uniti, per intenderci. E quindi loro erano all'ultimo passaggio, che era il controllo medico, che era quello che veniva fatto ai nostri emigranti, la differenza è che i nostri lo facevano quando arrivavi lì e se non andavi, io sto pensando soprattutto agli Stati Uniti, sì, e se non andavi bene ti rimandavano indietro, questi invece, che si sono fatti più furbi, te lo fanno in partenza e se non vai bene ti fanno neanche entrare nel paese. E quindi io mi sono trovata calata in questa realtà nella quale era per tutti normale fare questo percorso, cioè l'unica in sbattimento ero io ed ero anche, e questo mi ha fatto specie, ero anche l'unica arrabbiata perché questa roba costava un sacco di soldi. Costava il corrispettivo di una mia settimana intera di vita nello Sri Lanka, che non è poco per me, che ho un potere d'acquisto comunque europeo. Per loro, tutti quelli che erano lì con me, io, ma poi molti erano lì con la famiglia, quindi erano in 3, in 4, immagino che fosse una cosa ancora più costosa, ma nessuno faceva un plissé. Cioè, l'idea era, vuoi emigrare? Queste sono le regole del gioco, così è codificato. Certo. Così, così si fa, quindi mi sono trovata in questo ambiente completamente asettico, ripeto, molto costoso, in cui nessuno, ma dico nessuno, parlava mai in cingalese, si parlava solo in inglese, ma non con me, perché poi ci ho passato 6 ore in quel posto, quindi guardavo quello che succedeva, quindi era tutto solo asetticamente in inglese. E la mia sensazione è che in realtà fosse tutta fuffa. Ok. Cioè a me hanno fatto un controllo che... Ma neanche il mio medico di base che mi firma le ricette così. Quindi diciamo che era una sorta di terra di nessuno, non connotata a livello culturale, a livello sociale, eccetera, dove le persone transitavano per poter essere idonee per cambiare vita. Cioè era un balzello anche economico. Poi io so di casi di persone che invece hanno malattie gravi e che non sono stati reputati idonei ad andare in Australia, però nel mio caso è stato tutto talmente blando che veramente mi sono detta, ma che senso ha, se non un senso meramente economico? E poi quando sono uscita, mi sono un po' documentata, un po' informata, mi sono resa conto che quel centro lì era l'unico ufficiale autorizzato per chi voleva andare in Australia e in Canada. Ok. Ce n'era un altro per gli Stati Uniti, ce n'era un altro per la Germania, perché il paese era come se fosse settato su tutti i posti, l'Italia non c'era, su tutte le possibili mete interessanti per la nazione. Ognuno si era fatto il suo diavolo di centro specialistico, ognuno chiedeva quei cacchio di 150 euro, quello che era, tutte le persone che volevano passare di lì, e faceva parte della prassi. Adesso io non la voglio equiparare alle persone che pagano per venire in Italia, però un pochino a me quella sensazione di tutto fasullo è rimasta addosso, e mi è rimasta addosso ancora di più perché quando poi io ho finito tutta sta roba ho detto vabbè, ma poi i risultati quando me li date? E loro mi dicono no, i risultati non glieli diamo, come non me li date? In tutto ciò a me aveva fatto anche questi famosi raggi X al petto, che era l'unica cosa che non avevo mai fatto in vita mia. E come non me li date? No, i risultati vengono mandati direttamente a Sydney. E io dico, vabbè, va bene, avranno paura che io li mano metta, va bene, però datemelo una coppia, cioè comunque a questo punto per sapere se va tutto bene. Loro si sono rifiutati di darmi una coppia, mi hanno detto che entro 3 giorni mi sarebbe stato comunicato l'esito, io esco sfinita da sto posto in cui c'era un'aria condizionata gelida, quindi poi 6 ore senza mangiare, c'era manco uno che ti portasse una briglietta, c'era niente, io esco, riaccendo il telefono. In quel momento il telefono mi bippa e ricevo un comunicato del servizio di immigrazione dell'Australia che mi dice questo è il suo visto. Allora, secondo me la possibilità che avessero cambiato idea e che avessero deciso di darmelo è recondita. Quindi la mia personale interpretazione è: hai pagato il balzello, vabbè, allora vieni. Ok, lasciamo il dubbio, non lo sapremo mai, ok? Però una cosa che mi piace moltissimo, cioè sentendo questo racconto, mi piace moltissimo, mi affascina moltissimo, mi viene in mente quello che tu raccontavi sempre all'interno del libro, cioè di qual è la realtà dello Sri Lanka da cui arrivavi e che stride tantissimo con questo ambiente asettico, sì, fermo, immobile, che parla solo inglese, che poi è l'anticamera dell'Australia o comunque di un occidente vagheggiato. Esatto, di un... cioè mi viene in mente l'episodio che racconti dell'infradito. Di queste persone che vendevano tutte le infradito, ah, sì, ma perché questi continuano a vendere infradito e poi arriva un monsone che strappa le infradito a tutti quanti e tutti se le vanno a ricomprare, sì, perché per fortuna ogni bancarella vende infradito. E questa cosa mi ha lasciato assolutamente colpita e la racconto io, non bene come te naturalmente, ma la racconto perché è proprio il netto contrasto rispetto a quello che hai vissuto, no? A quello Sri Lanka che non è più Sri Lanka, già, sì, è già l'anticamera del posto in cui andrai, non che l'Australia può essere realmente così, però no, sicuramente non è più Sri Lanka, ecco, mettiamola, sì, così. Sì, è tanti paesi in un paese solo, che poi secondo me è una considerazione che si può estendere a ogni luogo del mondo. Certo. E la cosa che veramente a me ha colpito è stata la dimestichezza con la quale in tutto lo Sri Lanka ti prospettano le possibilità migratorie. Un altro aspetto che è evidentissimo, soprattutto nelle zone più povere, soprattutto a nord, nello Sri Lanka c'è stata una lunghissima guerra civile che si è combattuta soprattutto nella parte settentrionale. Il risultato, adesso la guerra è finita, però il risultato è che il nord è molto più povero. In più, finita la guerra, hanno anche avuto lo tsunami, quindi si è aggiunta catastrofe naturale a 25 anni di guerra. Quindi da lì la gente appena può scappa. E lì, oltre a esserci le agenzie che ti procurano i visti, ci sono tutte le agenzie che ti insegnano la lingua, ma c'è scritto, impara il tedesco per andare in Germania. Cioè non è la scuola di lingue, sì, sì, punto. Sì. Perché è ti chiaro serve la certificazione per il lavoro piuttosto è che... È tutto finalizzato a... Quindi cioè, c'è un intero settore o sottosettore economico che farà anche un suo bravo margine di business, immagino, che è tutto finalizzato al progetto di andarsene, di una fetta della popolazione. Questa è una cosa, allora in realtà stavo pensando, è una cosa che mi fa specie perché non sono abituata a pensarla così, anche se in verità la migrazione è un qualcosa di totalmente normale, che succede da sempre nel mondo, è solo una questione di abitudine, viverla, non viverla, vederla, non vederla, accettarla, non accettarla, però insomma che proprio ci sia del marketing, no? Su quell'elemento lì vuol dire che è un elemento... molto vissuto, assolutamente, molto sentito. Assolutamente, quindi diciamo che è stato un ingresso in Australia da una porta un po' decentrata rispetto a quella che io pensavo di prendere, che avrei voluto prendere, che mi ha fatto intravedere un altro tipo di Sri Lanka, non di Australia, ma un altro tipo di, certo, Sri Lanka. Sì, lo sguardo all'indietro, sì, che... Sì. Che il personale all'interno di questa struttura che mi ha fatto le visite erano tutti cingalesi, con un inglese impeccabile, però erano tutti cingalesi, non erano, okay, in pelle bianca. Senti, ma andando in Australia invece... Non sapevo che volevi andare in Australia. Sì, perché anche qui c'è sempre l'ambivalenza, no? Cioè abbiamo capito che i discorsi che ci stiamo facendo sono tutti sul filo del... Da una parte è così, dall'altra è cos'ha, ma non è che una è meglio, l'altra è peggio, una è giusta, l'altra è sbagliata, sono due facce della stessa medaglia, sono cose che coesistono, no? E io so che tu in Australia hai una storia importantissima da raccontarci, cioè questa festa nazionale, che è da una parte festa nazionale, dall'altra l'anniversario di un genocidio, di un'invasione, e gli dici, ok, come si fa a tenere insieme queste due cose qua? Però adesso lo dici meglio. Infatti loro non ci clamorosamente non ci riescono. Allora, la data è il 26 gennaio, che è festa nazionale in Australia, che viene chiamata Australia Day. Okay. Perché si celebra l'arrivo nel 1788 della prima flotta che arrivò a Sydney. E che viene celebrata con una flotta, scusami, che arrivava dall'Inghilterra. Okay. Dall'Inghilterra. E che viene celebrata con delle parate, in cui c'è di tutto, c'è la banda, ci sono suonatori di vario tipo e quando sono andata io era dedicata alla multicultura. Allora, l'Australia è un paese in cui esistono e vivono persone delle nazionalità più diverse, che secondo me hanno fatto la trafila, quella lì che io mi sono trovata a fare nello Sri Lanka. E in quel giorno sono tutti chiamati a partecipare alla sfilata. Tutti chiamati, anche quelli non visti benissimo, che sono fondamentalmente, nella mia esperienza, i musulmani. Perché sono la fra, l'ho detto apposta, cioè non una nazione ma una religione. Sono, secondo me è la religione della quale gli australiani hanno paura, probabilmente anche a livello di propaganda, e sono i musulmani. Però quel giorno vale tutto, quindi tutti con i loro abiti migliori, tutti con i loro strumenti musicali. Tutte le donne indiane con il sari e la bandiera indiana e le figlie con i jeans, perché il sari non se lo mettono più, però anche loro con la bandiera indiana. Tutte le vietnamite bellissime che fanno i ballettini, chi c'era? I tedeschi con la maglia della Germania, cioè c'erano gli italiani, c'erano Quindi tutti. celebrare le differenze, però tutte unite sotto Sotto la bandiera. il grande ombrello dell'Australia Day. Però qualche giorno prima io per caso avevo visto un manifesto appiccicato a una parete di un quartiere alternativo di Sydney e il manifesto diceva: ma quale Australia Day? Chiamiamola con il suo nome, chiamiamola Invasion Day. A quel punto io ho iniziato ero appena arrivata in Australia, quindi sapevo pochissimo della condizione degli aborigeni, poi l'ho approfondita nel nostro precedente incontro. Esatto. Adesso cambiamo, se no poi ci annoiamo. Assolutamente. E quindi lo stesso giorno per gli aborigeni, cioè gli abitanti millenari dell'Australia, quello stesso giorno è il giorno dell'invasione. Che cosa succede? A quel punto io ero a Melbourne, che è una delle grandi città d'Australia, come sanno tutti, quindi io sapevo che a Melbourne ci sarebbe stata la parata, c'erano tutte le pubblicità del mondo che dicevano dove sarebbe stata la parata, e io ho pensato, vabbè, vediamo Invasion Day, che cosa significa. E le informazioni non le trovi più. Lì immediatamente i social, internet, Tutto si pochissime, inabissa. sì. Tutto si inabissa fino a quando riusciamo a trovare in qualche modo delle notizie che dicono: ma raduno davanti al Parlamento, che già mi sembrava strano il Parlamento, però ci andiamo. Ed era contemporaneo alla parata ed era anche parallelo. Ok, quindi Parallelo due perché serpentoni di persone che si muovono nella stessa città, sì, nello stesso momento, parallelamente. paralleli anche perché la città è, essendo una città nuova e Recente. moderna, è una città che va di, come si dice, Sì, è un reticolo, un quindi reticolo perpendicolare. Quindi li fanno partire contemporaneamente, ma mentre da un lato c'è questa parata con le transenne, tu pubblico con la tua bandierina australiana, fai tutte le tue scene, dall'altra parte ti ritrovi in un corteo. Esattamente come noi conosciamo i cortei, quindi non ci sono le transenne, la gente cammina da tutte le parti, c'è casino, c'è un po' di bolgia, c'è l'esercito che controlla, tutto molto, molto pacifico, però c'è, di là no. C'è casino però all'australiano, cioè gli australiani sono sempre comunque, cioè, non sono come noi, quindi non si calpestano, no. Se si avvicinano dopo ti chiedono Educati, sì. scusa, ti chiedono se vuoi la crema solare, perché comunque fa caldo. Certo, ok. Perché 26 gennaio, ricordiamoci, lì è Sì, estate. erano più di 30 gradi, da quelle parti mi facevo un gran bel caldo, e lì mi ritrovo nel serpentone di un corteo con la bandiera australiana, che è una bandiera che è stata fatta da quando sono arrivati i bianchi, ovviamente, perché prima gli aborigeni non avevano nemmeno una parola per dire Australia. cioè il territorio è così grande, loro sono così pochi che ognuno conosceva la sua porzione di territorio, ma non era stato dato un nome a uno stato, all'inizio, non c'era uno stato. Esatto, era infatti stavo dicendo, poi il nome corrisponde a un'organizzazione. Esatto, momento, ovviamente non era necessario. Non c'era, tanto quindi non c'era neanche la bandiera, quindi la bandiera l'hanno fatta quando poi sono arrivati i dominatori che avevano la bandiera. Esatto. Sono nate insieme praticamente. Mm. E la bandiera è una bandiera che simboleggia un po' il paese, c'è un tondo giallo in mezzo che è il sole, sotto è una striscia rossa che è il colore principale della terra e sopra una striscia nera che è il colore della pelle delle persone. Ok, ok. E in questo corteo, ripeto, tutto molto educato, gli slogan erano 230 anni contro un milione di anni e si parlava di genocidio. E si parlava di cambiate la data. Ok. Quindi non era un negare l'innegabile, perché l'Australia esiste e non possiamo dire di no. L'Australia, i bianchi non conosciamo quello che è stata l'origine, esatto, dell'Australia. Esatto. Okay. Quindi lo slogan principale era cambiate la data, non chiamate più questa l'Australia Day, perché per noi è l'Invasion Day. Io questo corteo l'ho fatto, passavo un po' dall'uno all'altro, ripeto, perché erano paralleli, e a un certo punto mi sono resa conto che in quello della parata, che era molto colorato, che era molto allegro, certo, era una festa, che era una festa, c'erano tutti tranne gli aborigeni. Era la multicultura per tutti, che è una multicultura vera, perché è vera in Australia, non è solo di facciata, a parte il problema, tra virgolette problema, come viene vissuto l'Islam. Mm-mm. Però il fatto che l'Australia sia stata una terra in cui c'era possibilità per tutti, o comunque per tanti, c'è terra per tanti, è vero, è reale. Quindi è una, cioè, vera multicultura, non è finta. No, okay. Non era una faccia, al di là del fatto che a me la parata facesse un po' ridere, però a parte questo, e lì sì, era una parata, quindi era una parata, però la multicultura è vera, è profonda, però l'hanno invitati tutti tranne quelli che ci sono sempre stati. Mm-hmm. Ed è questo che stride, perché su questo o con questo gli australiani i conti non li hanno ancora fatti. Questo è affascinante. Tra l'altro vi chiedo, ah sì, è vero, sono perché non ho sott'occhio la 8:15. Allora ti chiedo l'ultimissima cosa, poi tu dici se dobbiamo libere. Oh, benissimo, ok. Allora diteci voi se dobbiamo se stiamo esagerando, se dobbiamo tagliare. Qualcosa da bere? Ma un po' d'acqua. Anch'io sì. Ancora ti ringrazio. Un po', grazie. Ghiaccio. Io no, grazie. E, tra l'altro, insomma, voi con gli aborigeni in realtà avete avuto un contatto diretto, nel dopo, senso che avete proprio lavorato, sì, con loro, sì. E la storia che avete raccontato, questo è un altro incontro, diciamo questo inception di incontri, però la storia che avete raccontato rispetto all'esperienza che avete avuto con gli aborigeni è una storia comunque complessa. Ovviamente c'erano tutte le premesse perché lo fosse, però nel senso è una popolazione che ad oggi non vive proprio tutti i fasti dell'Australia, anzi vive in una condizione di emarginazione, se vogliamo usare una parola non troppo forte. Ok, un po' edulcorata. Anche lì, se posso fare un parallelismo forse un po', grazie, forse un po' azzardato, tra quello che abbiamo detto di Israele e Palestina e quello che stiamo dicendo di, diciamo, lo dico semplificando, Australia bianca e Australia nera, è che da una parte e dall'altra ci sono persone che non si parlano, quindi che si ignorano, che si ignorano, che si detestano, ma si ignorano. Cioè, tanto quanto un palestinese è raro che parli con un israeliano, un aborigeno è raro che parli con un australiano bianco. Vivono nello stesso territorio, in realtà e in contesti assolutamente diversi. Mm. E l'aspetto della mancanza del dialogo è forte, perché significa che, cioè, non hanno proprio idea, se non tutta una serie di stereotipi, alcuni dei quali sono veri, perché anche lì c'è, cioè, lo stereotipo dell'australiano bianco che mi dice ma loro non vogliono lavorare, bevono e basta. È vero, perché la maggior parte degli aborigeni non lavora e sono alcolizzati. Dopodiché andiamo a vedere i motivi per certo. i quali non lavorano. Perché, scusami, e sono... facendo un passo indietro, la maggior parte degli aborigeni vive in delle comunità dedicate agli aborigeni, comunità non nel senso di strutture di recupero, ma nel senso di paesi, zone, ambienti, come se fossero delle riserve. Delle riserve, esatto. che non hanno delle recinzioni. Esatto, però... Però di fatto sì. Sono allora, io. Innanzitutto, c'è cioè, un altro parallelismo... E vivono spesso, scusami, di sussidi statali, sì, dicevi, sì. Cioè... C'è una condizione di grande disagio, ok? Voi avete lavorato in una scuola, tra l'altro. Sì, in due scuole. All'interno di comunità aborigene. Allora, vivono di sussidi statali perché, dunque, fondamentalmente la piaga dell'alcol tra gli aborigeni è altissima, ma gliel'hanno portata gli inglesi, ovviamente, così come è successo anche negli Stati Uniti d'America. Dopodiché, se mi posso permettere, non è che gli australiani bianchi se la passano tanto meglio quanto a cattivo rapporto con l'alcol. Ah, ok. Perché comunque hanno dei problemi di alcolismo fortissimi in Australia, da entrambi i lati. Per motivi diversi, magari. Però. Per motivi diversi. Okay. Per motivi diversi. I sussidi sono uno stato ricco, perché l'Australia è una nazione ricca, che dà dei sussidi alle persone che aumentano, se hai figli, se hai famiglia, se, che in parte è un po' un... Così mi sono lavato la coscienza del fatto di averti cacciato nelle zone più inospitali del paese. Ok. Del fatto di... gli australiani bianchi molto spesso hanno dei sensi di colpa molto, molto forti, che però sono inutili. Cioè, adesso non voglio semplificare eccessivamente le cose, però con il senso di colpa non ci vai da nessuna parte. E dando il sussidio, che cosa succede? Che molte persone vivono di questo sussidio malamente, precariamente, ma vivono di questo sussidio. Però ce ne sono anche alcune che ti dicono, ma io un lavoro non lo cerco, perché tanto lo danno a un bianco, non lo danno a me. Quindi perché dovrei fare la fatica di andare a cercare io un lavoro se poi comunque lo danno a un bianco? A me danno la casa... danno il sussidio. Allora poi cosa succede? Che dall'altra parte ci sono gli australiani bianchi che magari lavorano nelle miniere. L'Australia ha tantissime miniere, tantissime risorse minerarie, Anna lo sa benissimo, che magari si fanno questi turni da 12 ore in miniera, quindi lavorano veramente tanto, e che poi escono e dicono, io questi qui gli sparerei perché loro non fanno niente, certo. Che sono lì a bere. Allora lì c'è il problema di fondo. È difficilissimo, sì. Bisognerebbe trasportare nell'Australia, che ha poca coscienza sociale, storica, certo. E collettiva, bisognerebbe trasportare tutti i nostri educatori. Uno, perché così magari prendono uno stipendio australiano. Parliamone. Lavorando nel mondo del sociale del no profit, so bene, esatto. Stai parlando, ok. E due, perché un altro aspetto del quale mi sono resa conto è che tutta una serie di strumenti, io penso di averli più di loro, però cosa fai? Arrivi tu e gli dici, certo. No, aspetta, adesso te la spiego. Dopo, in una situazione che, cioè, non lo puoi fare tu singolo, lo deve fare... Deve essere una roba... governativa. È una questione politica. È una questione questa, politica. Come ci dicevamo prima. Sì. È molto molto affascinante quello che racconti prima di tutto, perché anche qui c'è un tema di un conflitto interiorizzato, più o meno manifesto, più o meno rumoroso, però è un conflitto interiorizzato. Ci sono delle posizioni che sono calcificate lì così, ed è difficilissimo fare sempre quel passaggio da un mondo all'altro, anche in una realtà così nota e così di riferimento come potrebbe essere l'Australia, perché spesso sì. È considerato un riferimento per tutta una serie di cose. Poi quello che è successo a me sia in Israele e Palestina sia in Australia è che ho osservato, e non mi sono immedesimata mai né da una parte né dall'altra. Se vogliamo fare l'esempio più semplice, sì. Perché ha meno connotati anche politici, ma se volete poi facciamo anche quell'altro, che riguarda l'Australia, io non mi sentirei di dire no, io vorrei vivere con gli aborigeni. No. Cioè, è una società comunque fortemente violenta, è una società fortemente repressiva nei confronti delle donne. Cioè, esiste ancora la legge non scritta, quindi non si può definire legge, però diciamo il codice che prevede che se una donna tradisce il marito la può ammazzare, ma il contrario non c'è. Quindi io comunque in una realtà del genere non mi sento rappresentata, non mi sento che... Ma quell'altra, quella dei bianchi, con tutta questa prosopopea dell'alcol e con questo stile di vita assolutamente USA, quindi sì, votato a un consumismo... A un benessere, a un comfort che conosciamo in qualche modo. Sì, ma che è troppo lì, che lì è veramente l'apoteosi dei consumi. E io non vivrei neanche in quella dimensione. Quindi mi sono ritrovata a dire, va bene, io lo osservo, ci sono stata. Lo attraverso, no? Fisicamente. Lo guardo, ci penso e con questo torno a casa, senza dire starei da una parte e starei dall'altra. Ma, e questo può essere spinoso, però, vabbè, lo dico lo stesso, vale anche per Israele e Palestina, nel senso che... io sono assolutamente sicura della mia posizione in materia di diritti umani e di autodeterminazione dei popoli, ma ciò detto, se mi dovessero dire devi scegliere se vivere in Israele o Palestina, ripeto, come per l'Australia, né da una parte né dall'altra, però in Palestina significa essere inseriti in una forma societaria, che è una forma societaria patriarcale, fortemente imperniata sulla religione, in cui anche lì le donne hanno... Erika fa segno di no? Sono palestina sulla religione. Prego, prego, assolutamente. Prego. Fuori no, non ci sono mai stata. No, è proprio laica della società. Sicilia? Palestina. Palestina. Ah, no. Beh, insomma, non è che le donne abbiano tutti questi... Cioè, comunque il livello di... anche di... la percentuale di lavoro delle donne rispetto agli uomini è molto inferiore, mentre dall'altra parte c'è un'uguaglianza di fatto, ci sono tutti i diritti della comunità gay, cosa che in Palestina non ci sono, però vivresti in un mondo così fortemente, in un paese così fortemente militarizzato? Guarda, secondo me hai toccato un argomento delicato, ma secondo me molto sensato, cioè il tema della sospensione del giudizio, ok? Nel senso che è chiaro che noi andiamo nel mondo portandoci dietro quello che è la nostra visione, quella che è la nostra esperienza, quello che è per forza di cose il nostro vissuto di esseri umani che sono nati e cresciuti in un luogo con una determinata cultura, per forza di cose, per quanto io possa riconoscermi in quella cultura o sentirmi distante, comunque un retaggio culturale della parte di mondo che ho vissuto per tutta la mia vita, ok, principalmente quella parte ce l'ho. Questo cosa vuol dire? Che mi mette nelle condizioni di andare in un luogo e dire questo è per me o questo non è per me, questo è giusto o questo non è giusto. Quello che tu dici, io non so se vivrei qui, perché oggettivamente il tuo bagaglio culturale è un altro, sì, ed è corretto dirti io non lo so che cosa è sì e che cosa è no, io posso informarmi, posso chiedere, posso studiare, posso andare a vedere, posso approfondire, ma dall'altra parte come posso io sapere che cosa è giusto e che cosa non lo è? E viaggiare in questo senso, secondo me lo racconti molto bene, è proprio questa cosa qua, è passare, come dicevamo prima, attraverso queste esperienze, passare accanto a queste vite, farsele raccontare, vedere cosa sta succedendo, portarsela a casa e cercare in questo modo, secondo me, di allargare il proprio vissuto, il proprio bagaglio, no? Esistenziale e culturale, sapendo che io ho sempre vissuto così, ci sono altri luoghi, altri ordinari, ok, che sono completamente diversi dal mio, che però sono reali, esistono. Poi ci sono dietro mille motivazioni storiche, sociali, culturali, corrette, scorrette, assolutamente, cioè sarebbe sbagliato dire che in un luogo è tutto giusto, nell'altro è tutto sbagliato, assolutamente no, ci sono luce ed ombre ovunque, dove ci sono esseri umani ci sono luce e ombre, sempre. Quindi a questo punto sospendere il giudizio, secondo me, è il livello migliore per stare dentro a questo tipo di esplorazione. E qua vado verso la chiusura, che poi in realtà è un'apertura se vogliamo discuterne insieme, e la chiusura è un'immagine molto bella che c'è nel tuo racconto, sempre su Israele e Palestina, è un'immagine che mi fa pensare al dialogo, che mi fa pensare al passaggio da una parte all'altra senza giudizio, e cioè tu dici che sia da una parte che dall'altra confine, c'è un'immagine che torna spessissimo, indipendentemente dalla cultura, dalla religione, che è quella... delle chiavi. Delle chiavi. La vuoi raccontare tu? No, no. Dicela tu. Le chiavi sono un elemento che torna, che sono un simbolo. Allora, per gli ebrei sono stati un simbolo fortissimo quando sono stati deportati, si sono portati dietro le chiavi, perché le chiavi erano per tornare a casa loro, e quindi hanno trovato montagne di chiavi nei campi quando gli alleati sono entrati in Israele. E le chiavi sono un simbolo dipinto su tutti i muri di Palestina, perché le donne e gli uomini cacciati dalle loro terre, quando arrivano i coloni e si impossessano delle loro terre, si portano via le chiavi e le dipingono sui muri. Quindi c'è questo elemento di ricorrenza delle chiavi, che, come l'hai letto tu qualche giorno fa, adesso concludo. Le chiavi sono un simbolo bellissimo, perché le chiavi possono chiudere, ma possono anche aprire. Quindi c'è un legame col passato anche, ma c'è anche una propensione verso il futuro. È bello che inconsapevolmente due popoli così vicini eppure così lontani diano così importanza alla stessa cosa e allo stesso simbolo. Questo è l'inizio di... cioè, facciamo i fricchettoni naif, adesso ci vogliamo tutti bene. No, però è un dato di fatto. Magari si può costruire qualcosa, magari no. Boh. È una chiave di lettura, teniamola così. Grazie per averci ascoltate. Se ci sono delle domande. Se ci sono delle domande o se vogliamo confrontarci, è proprio il momento adesso per farlo e per dirci delle cose. Anche dei consigli, delle riflessioni che vi sono venute. Se vi sono venute, ovviamente. Comunque, ti racconto quello dello Sri Lanka, ma ce l'ho detto diverso. Non... attenzione. Ah, sì? Sì. Allora, tu ce l'hai detto. Io dico, come al solito, sono io la solita sfiga. Allora, vabbè, diciamo che era una versione un po' meno pop. Beh, l'ho dovuta rielaborare dopo, perché lì sul momento rabbia. Esatto, però comunque in un giorno, secondo me l'hanno fatto solo per fare un dispetto, quindi c'è ho detto proprio di... Perfetto. E poi tra tutte le ipotesi che avevo contemplato, se non mi danno il visto, il mio volo per l'Australia passava dalla Malesia. Cioè, vabbè, mi fermerò in Malesia e tu mi manderai una cartolina da Sydney, perché comunque dallo Sri Lanka dovevo uscire perché il visto scadeva, quindi c'era tutto questo. Era più sì, poi è stato il momento in cui ho pensato, adesso devo chiamare qualcuno per farmi mandare la sua visita oculistica, quando volevano assolutamente la mia visita oculistica, per chissà quale motivo. Fantastico, fantastico. No, però la testimonianza diretta secondo me è molto, molto divertente. Un po' più sanguigna, diciamo. Così, vediamo di qual è il problema vero. Poi la risolviamo. Però è 24 ore, infatti noi ci siamo tutte molto rassicurate, no? Come se il documento fosse arrivato in ritardo, ecco, un po' questa cosa, l'impressione, okay. Dall'altra, da questa parte in cui c'erano i racconti, era come, vabbè, tipo, la mail è arrivata tardi, okay. È stato qualche problema, qualche server, no, vabbè, comunque risolta, dai, senza... Sì, poi l'anno dopo, quando abbiamo chiesto di nuovo il visto, ancora una volta, a Francesca è arrivato in poche ore, a me ci ha messo 2 giorni. Ma secondo me perché avevano... lista nera. Sì, e quindi hanno voluto... Quindi ho avuto di nuovo questi 2 giorni. Ero di nuovo in India stavolta. Questa scrive i libri, bisogna darle informazioni per... In realtà lo facevano per te. Ma io avevo sempre il volo via Malesia, quindi io pensavo, vabbè, io... cioè, al massimo sto in Malesia. E comunque la prospettiva non va male, sempre. Esatto. Volevo chiederti sugli aborigeni, perché ho avuto l'impressione che ci sono stata molto meno di te in Australia, però che fosse un popolo che alla fine era assegnato all'estinzione, e cioè nel senso il fatto che esempio, se mi ricordo bene, di non tramandare solo oralmente, ma poi non è detto che le spiegazioni di quello che veniva tramandato venissero, potessero essere accessibili a tutti, quindi c'è questa, queste storie, però in realtà il significato di queste storie non è noto a tutti, c'è una serie di, una catena di persone che a seconda della gerarchia poi possono interpretarle, possono capirle, quindi questo ovviamente fa sì che la cultura sia una cultura elitaria, no? E che quindi venga passata a poche persone, questo inevitabilmente secondo me crea cioè provoca la fine della cultura, no? se non diffondi la conoscenza, le persone si interessano poco, la comunità è sempre più ristretta e poi è un po' asfittica, no? E anche, e quindi mi sembra veramente, ho avuto l'impressione di un popolo che alla fine aspetti la fine, cioè di una cultura che aspetti la fine. Non so se per... Allora, io ho avuto la sensazione di un popolo martoriato fisicamente, anche fisicamente provati da questi 250 anni di alcol, di alimentazione occidentale, la sensazione però che ci sia un campo artistico che va crescendo adesso. Sì, ci sono state allora tutta questa, una delle tante dei tanti aspetti drammatici dell'arrivo dei bianchi è stato l'aspetto delle generazioni rubate, di cui sicuramente tu sapete tutti, o dico in due parole che cosa sono le generazioni rubate? Due parole. Le generazioni rubate sono quei ragazzini nati da matrimoni misti, ovviamente uomo bianco, donna aborigena, che venivano tolti dalla famiglia aborigena e venivano messi in strutture ecclesiastiche bianche, nelle quali veniva loro vietato qualsiasi contatto con la famiglia di origine, veniva loro negato di parlare la loro lingua di origine. Insomma, venivano instradati verso una vita, tra virgolette, bianca, quindi cancellando completamente quello che era il loro passato. Allora, adesso non dico che siano tanti, però ci sono un certo numero di artisti. Innanzitutto questa cosa è venuta fuori. Vi do un dato cronologico perché è importante. La fine istituzionale di questa, diciamo, pratica sì, data del 1973, quindi è andata avanti fino praticamente alla mia nascita, questa pratica di strappare i ragazzini dalle famiglie. Che cosa significa? Da un altro lato, che però c'è un certo numero di persone ancora in vita che hanno vissuto questa esperienza, e che adesso che si parla un pochino di più dei diritti degli aborigeni, alcuni sono diventati degli artisti, e quindi ci sono un certo numero di mostre in giro per il paese in cui un piccolo inizio di processo di rielaborazione, che è singolo, se non è organizzato, non è organizzato né da parte del governo, che ha chiesto scusa per le generazioni rubate, ma lì ha finito la sua parte di partecipazione nei confronti della questione degli aborigeni, ma che non arriva nemmeno dalle community. Cioè le community, queste, chiamiamole riserve, se le vogliamo chiamare riserve, hanno il loro consiglio degli anziani, il loro consiglio che le gestisce. E lì non c'è una voce che dice allora adesso diamo visibilità a quello che è successo, quindi parte sempre solo dal singolo. C'è uno slancio individuale. Individuale. Okay. Quindi a livello societario manca il tema della divulgazione. Assolutamente. Okay. Però ci sono dei singoli che invece prendono quel tipo di... Quindi le possibilità possono essere due, o quello che dici tu, oppure che il singolo vada a crescere e a un certo punto diventi massa critica. Anch'io ci metto un grande punto di domanda. Però un simbolo di... Perché da... Scusami, non ho sentito. Dico, inizio, ti alzo la voce. Sì. È un simbolo di... Cioè, è il simbolo di una condizione estesa a tanti popoli della Terra. Cioè, la cultura aborigena si chiamava cultura del ventaglio ed era assolutamente collegata alla terra. Quindi loro proprio si muovevano ascoltando la terra e suonavano, cioè il didgeridoo era il loro alfabeto. Erano connessi col sogno, erano connessi a tutte le piante di guarigione, è una popolazione che viveva in Australia da non so quanti mila anni prima che il primo uomo bianco riuscisse a metterci piede in una terra che è stata in ospedale per 2000 anni dopo, prima che loro iniziassero a vivere. Per cui quello che è successo è che hanno, infatti poi cioè proprio la cultura della terra è stata trasformata, stravolta. E infatti poi hanno fatto quell'atto che era l'atto di restituzione della terra che credo fosse il 67. Però per esempio gli aborigeni Maori, cioè il presidente neozelandese, fa il discorso istituzionale di apertura delle cerimonie ufficiali in Maori e in inglese. In Australia no. Questa cosa non esiste, per cui è una tradizione orale, ma è molto più che una tradizione orale, nel senso che è molto sottile e quindi perduta, per cui è come una lotta di sopravvivenza quando altri popoli non ce l'hanno fatta, però è quasi come se fosse forse da guardare nell'altro modo, cioè non è una cultura che può sopravvivere fino a quando le sarà permesso di sopravvivere. In un certo senso, no? Perché è come se infatti l'arte aborigena, quindi tutte quelle forme che sono di solito, cioè sono proprio estate, un libro che racconta questa cosa è la Via dei Canti, cioè Queen, e anche c'è un film bellissimo che si chiamava Rabbit Proof Fence, esatto, che racconta proprio la storia di questi bambini che riuscivano a percorrere 6.000 km per tornare a casa, seguendo proprio perché poi c'era la fence, erano staccionate dei conigli, quindi le cose che venivano a mettere, le reti che venivano a mettere per proteggere i campi dall'assalto dei conigli, ma bambini riuscivano a percorrere 5.000 km e tornare a casa, proprio per questa bambini, cosa. Bambini sempre rubati alle famiglie. Bambini rubati, e lì è stato fatto quasi un tentativo proprio di estinzione, cioè loro volevano eliminare la cultura, la lingua e il colore della pelle, per cui c'è una forza potentissima, però forse la nostra reazione è la reazione dei rassegnati, cioè è collettiva e globale, non so come dire. No, il punto secondo me è che non... cioè sicuramente legata alla terra, è sicuramente antichissima, però loro, la mia impressione è, sono rimasti gli aborigeni, quegli aborigeni lì, cioè non c'è, perlomeno per quello che ho potuto vedere io, ho letto io, no, sicuramente superficiale, cioè manca un'evoluzione, cioè anche noi siamo stati greci e romani, no? E adesso siamo quello che la nostra cultura ci ha permesso di elaborare. Loro vivono in uno stato che non gli consente nessun tipo di elaborazione o inclusione, perché sicuramente il sussidio, anzi secondo me è proprio il contrario, il è un bavaglio, no? Sì. E questo mi giustifica, gli consente di renderti controllati, e non c'è nessun altro modo. Quindi la cultura aborigena è, secondo me, congelata lì in un modo che... Però non è scusa, nel senso, rispetto alla questione dell'arte, cioè l'arte australiana, in particolare aborigena, è una delle arti più vivaci che ci siano, come quella africana, perché tu dici, ma quella... E infatti nel 2019 c'è stata una bellissima, importantissima mostra di arte australiana in quella parte aborigena, comunque il rapporto con l'origine, o comunque il dramma, diciamo, del distratto originario è stato fatto proprio al parte. Ci sono dei libri bellissimi che spiegano anche l'evoluzione, cioè c'è stato poi un passaggio storico, adesso non ricordo la data, in cui ti spiega anche ad esempio il senso di perché noi vediamo i puntini e non le linee sono, cioè questa cosa mi era rimasta impressa perché Giulia mi aveva regalato una cosa sui puntini, allora mi ero incuriosita perché insomma ho una passione per i puntini, ho scoperto che loro usano i puntini perché per loro è sacro, cioè quello che vedevano diciamo gli occidentali, comunque i bianchi, quando hanno incontrato queste che erano delle forme artistiche, appunto poi erano nella sabbia, quindi voglio dire estemporanee, e volevano riportarle, però avendo un senso sacro, loro le hanno trasformate, quindi le linee sono diventate dei punti. e poi per noi hanno tutto un altro significato, quindi comunque voglio dire, quindi è una forma, è una d'arte importante in cui comunque riportano la loro storia, sia la loro storia passata ma anche lo spunto, quindi il dramma, e quindi c'è questa parte. E poi comunque esiste tutta una parte, perché non bisogna dimenticare che comunque l'Australia viene dal Nuuk, comunque fa ancora parte del Commonwealth, giusto? Quindi comunque c'è la giurisprudenza inglese, la quale come dire, non si ferma nel tempo, cioè tu puoi fare, puoi avere anche, puoi, come dire, far causa anche per cose di vita, e loro, e ci sono delle cause in corso per i diritti di utilizzo, per la scomparsa, cioè esiste anche una parte di diritto antropologico di cui poi magari uno non si interessa, per un caso, nel senso che per un amico che ha studiato questi argomenti, e quindi non, come dire, dà forse un senso di più mobilità, o comunque che le cose avvengono, certo non in modo palese in cui uno si aspetterebbe, perché poi magari nella realtà incide su una minima parte, immagino, della popolazione aborigena, però questo non vuol dire che non sia scomparso, cioè vuol dire esistono anche dei movimenti, no, appunto, dei movimenti che si muovono, cioè che comunque magari sembra che siano sotterranei, poi invece comunque ci sono più elementi di dialogo in modo anche drammatico, può essere il diritto, però il diritto già può essere un luogo di riconoscimento, no? Che è fondamentale, no? Di esistenza, di valore. Ad esempio, questa cosa mi aveva molto colpito. C'era stata una causa con l'IKEA, perché loro avevano usato dei nomi aborigeni per, che ne so, il peluscino o un mobile, adesso non mi ricordo. Delle comunità aborigene avevano chiesto il riconoscimento dei diritti d'origine culturali, e ora l'interno, insomma, all'inizio di cui ero arrivata io al racconto, poi non so come si è avuta una conclusione, l'IKEA diceva: va bene, io sono disposta a pagare i diritti culturali, perché esistono anche i diritti d'autore culturali, non sapevo perché esistano, se anche gli altri, quindi le altre società, le altre nazioni li riconoscono. E comunque già vuol dire anche riconoscere una cultura, già questo mi sembra che sia un salto, sia richiederlo, no? Cioè quindi una nazione, cioè nazione, che poi sono tante nazioni, no? Perché poi ci sono tante, quindi la domanda dice, no, perché questa donna di 90 anni lei conosceva 70 anni. Perché essendo gli spazi così ampi, ogni luogo, no, era come una piccola nazione, adesso faccio dei paragoni con i nostri termini, sì, sì. E parlava una lingua diversa, quindi la sua scomparsa avrebbe portato purtroppo alla perdita di tutte queste, certo, lingue, no? Un po' come se scomparissero di un canto tutti i nostri dialetti. Scusa, volevo capire come in questa situazione nell'Australia le scuole di Twiggy come c'entrano? Come le scuole, pensa, le scuole di Tiwi sono un esempio completamente diverso. Aspetta, dove vai, Barbara? No, ci sono. Ci sei. Devo solamente fare uno spiego per dire che sono ancora. Ah, d'accordo. No, perché siccome il tema Australia mi sembrava che ti interessasse. Va bene, va bene. Perché loro lo sanno già. Ripresa subito. Magari doveva andare in bagno da un'ora e mezza, poverino. Ma all'interno dei programmi che in qualche modo avete visto. Dei programmi di scuola? C'è un qualche richiamo alla tradizione o è tutto solo ed esclusivamente il programma scolastico impostato? Farei aggiungere una cosa a quella che dice Giovanna, che spesso controllabile, no? Perché diciamo, c'entra ma non c'entra, però l'Australia fino al 1975 ha avuto una politica bianca per cui non poteva accogliere nessuna persona di colore all'interno del paese. Tranne i cinesi. Sì, esatto, neri fondamentalmente, possiamo vedere Africa, musulmani, eccetera. Quindi ha sicuramente un problema a gestire la diversità, e una diversità come diceva esattamente con la popolazione aborigena molto nera e quindi già molto impressione, molta paura probabilmente, e quindi c'è un tema fondante nella cultura australiana, assolutamente, assolutamente, e anche nella scuola immagino questa cosa non se ne possa parlare, no, non fate una curiosità, quell'esperienza di scuola. Allora, i libri, inizio dai libri e poi arrivo invece alla classe, perché sono due argomenti in parte differenti. I libri di scuola sono imbarazzanti. Io ho guardato i libri di storia e di geografia, tanto matematica non l'ho mai capito in vita mia, quindi... cioè, anche se vado dall'altra parte del mondo, non... comunque. Però, io... infatti, in realtà forse quelli australiani ce l'avrei potuta fare anch'io. Allora, fondamentalmente i libri di storia iniziano con l'arrivo dei britannici, cioè non vanno prima. Facile così, però. Dai, cioè, tutti in senso, ci siamo spaccati la testa su mille anni di storia. Sto scherzando, però è affascinante. Non ho capito. Scusa? Degli australiani bianchi. È la loro, quindi. Se provi a chiedere ma come mai, loro ti rispondono dicendo vabbè, ma tanto gli aborigeni non avevano una tradizione scritta, era, e quindi non avendo una tradizione scritta non la puoi, quindi si può dire che sono degli ignorantoni, possiamo dirlo, cioè sono proprio cioè, ignoranti come un pezzo d'asfalto, dai, diciamolo. Però quello che succede in classe e nello specifico in una scuola, che è quella di Tiwi, in realtà è diverso, però qui devo fare un piccolo, okay, vai, un piccolo cappello introduttivo, sì. su Tiwi. Tiwi è un arcipelago di isole a nord di Darwin, quindi siamo Australia, parte centrale, territorio del nord dove vive la maggior parte degli aborigeni, è una delle zone più inospitali dove c'è molto poco, quindi non è sulla costa, non ci sono le miniere, non... e lì di fronte ci sono queste isole che sono molto vicine a Papua Nuova Guinea, più o meno, per dire dove sono collocate. E queste isole gli inglesi quando sono arrivati sono andati anche in queste isole, ci sono rimasti un po' di anni e poi gli abitanti di Tiwi li hanno cacciati. Okay. E quindi è uno dei pochi casi in cui gli inglesi sono stati cacciati, anche le missionarie sono stati cacciati. Quindi formalmente Tiwi fa parte dell'Australia, quindi è sotto il governo australiano. Però gli australiani non l'hanno mai conquistata territorialmente e gli abitanti di Tiwi sono rimasti molto fieri della loro identità sociale, culturale, certo, delle loro tradizioni. Allora, per preservare tutto ciò, che cosa hanno fatto? Divieto di ingresso ai bianchi. Quindi per entrare a Tiwi c'è bisogno di un permesso speciale che ti viene dato dal council, dal consiglio degli abitanti, okay, di Tiwi. A Tiwi non ci sono alberghi, quindi se ci vai ci stai un giorno. Io ci sono andata perché ho avuto la fortuna di essere presa a lavorare in una scuola di Tiwi. Devo dire, anche sapendone praticamente niente prima di arrivarci, perché non è che sia proprio un tema conosciutissimo. Però le bolle di sapone? Le bolle di sapone ci hanno portato nella scuola aborigena di Tiwi. E lì, allora, da un lato tutte le problematiche di cui abbiamo parlato, quindi l'alcolismo, la violenza domestica, quelle a Tiwi ci sono tanto quanto ci sono in tutto il resto delle comunità aborigene. Però da un altro lato, e questo si vedeva anche all'interno della scuola, c'è un grande rispetto per quella che viene riconosciuta come una cultura forte, come una cultura non forte, viva. Ok. con una grandissima accettazione delle persone, con questa scuola in cui gli insegnanti sono tutti bianchi, perché comunque un insegnante con la pelle scura io in Australia non l'ho mai visto, tutti un po' con una vena da educatori maldestri perché insomma c'è, ma gli strumenti sono un po' limitati da un punto di vista appunto sì, educativo, però lì c'è una grande consapevolezza dell'importanza della cultura, quindi di preservare anche la, quindi all'interno di un panorama in cui sei a scuola e il libro non ti parla, il libro di storia non ti parla della storia degli aborigeni perché non è codificata, però allo stesso tempo ci sono un sacco di lezioni di arte in cui i ragazzi vengono spronati a continuare la loro tradizione. Beh, quindi se noi c'è il tema della conservazione, c'è quello però dell'evoluzione. Sì. Cioè proviamo a sperimentare delle cose per fare in modo che questa cultura abbia un futuro. Esatto. E non solo un passato. E lì un po' ce l'ha, perché poi andando, stiamo parlando di una cosa di stranicchia, cioè un'isola periferica della periferica Australia, quindi cioè, già non è che proprio nel panorama artistico mondiale l'arte australiana sia al Louvre o a... Però la comunità di Tiwi, se si va a guardare anche sui circuiti tramite internet, in realtà è riconosciuta a livello mondiale, a livello artistico. Sì, sì, sì, sì, ok. Quindi comunque ha la sua nomea, ha il suo riconoscimento, ha la sua nobiltà. Potremmo dire in sintesi tutto meno che la politica. Sì, sì, ok. Cioè, dici, sono riconosciuti da tutti, tranne che dall'aspetto politico. Sì. Sì, hanno passaporto australiano. Che fa riferimento all'etnia o a... No, no, sul passaporto. C'è una cosa che non ci metto un aggettivo, la dico e basta. L'istruzione per gli aborigeni non è obbligatoria. Per i bianchi sì, per gli aborigeni no. Appunto, tutto meno. Sì. Eh sì, decisamente. Però sarebbe interessante vedere, cosa che io ovviamente non so, da dove viene fuori. Se magari è un retaggio del... Non vogliamo di, come dire, essere... cioè, sottoscrivere una cultura orale. Sì, cioè comunque una... Ok, se sei in ottica conservativa in qualche modo, se invece è in ottica di cancellazione. Esatto, o se nasce dal desiderio di emarginare ancora di più. Bisognerebbe capire quando questa regola è stata introdotta, tipo se era la regola quando originaria oppure se è stata introdotta una legge che è stata introdotta successivamente. Per esempio in molte delle nostre colonie nostre, direi forse tutte, l'istruzione non è obbligatoria per i popoli locali, perché non erano, questo vengo da un libro, la fonte autorevole. Ma questo perché c'era, cioè non so se si possa essere la stessa cosa, ma perché proprio c'era un concetto dell'essere umano che non comprendeva queste popolazioni, no? Cioè si nasceva dalla negazione dell'umanità differente. Per quello dicevo, capire sì, sì, da dove deriva questa politica. E anche quante persone aborigene poi scelgono attivamente di non mandare i figli a scuola, anche quella è una risposta che, cioè un dato che sarebbe interessante, che io non ho, ma vabbè, compito a casa, dobbiamo cercare. Sicuramente è molto affascinante, cioè affascinante non nel senso che è notevole, ecco, di interesse, in questo intendevo. Ottimo, altre domande? Avevi alzato la mano? Comunque se ti interessa sta cavando molto in Italia la gente che manda a scuola i figli, non so se avete visto gli ultimi dati, no, non sono obbligatorietà, una roba su cui dovremmo riflettere. C'è una caduta e ci sono anche altre scuole però che si stanno, cioè che vanno in altre, per fortuna il dato non tiene forse conto di quello, le scuole particolari, le scuole natura, scuole sì, di... Però io resto della lingua che la scuola deve essere una pubblica sostanzialmente, che secondo me questo resta un discrimine, poi ben vengano tutte le paritarie, le scuole della natura e tutto quanto, però il focus iniziale deve essere quello. Per me poi magari il mondo in grande evoluzione, la nostra base culturale con cui abbiamo costruito questi paesi resta questa, obbligo. Quando sei tornata dall'Australia parlando col confronto dopo ha scritto, però eri molto innamorata, sì. Cioè volevi trasferire pro tempore. Beh, certo. Adesso io ho delle serie difficoltà con la parola definitivo, ma questo è un mio problema. Sì, ci avrei vissuto volentieri per un po'. Che l'aspetto della facilità, secondo me, non va sottovalutato. Anche questo, cioè, fa parte dell'esperienza vissuta di esserci stata. Io sono stata 9 mesi in Australia. Devo dire, io all'inizio li pigliavo un po' in giro perché gli australiani sono sempre contenti, quindi ti fermano al semaforo e ti dicono: ah, ciao, come va? Una bellissima giornata. Quindi vorresti grugnire così, ma cacchio, c'hai da essere contento. Ma di cosa ti fai, amico mio? Parliamone. Per essere sempre felicione. Sono sempre contenti, non sono mai di fretta. Questo ritornello che si sente dalle nostre, che è vero, non ho tempo, cioè io non ho figli, però le vedo le persone che hanno figli, cioè non ce l'hanno tempo. Gli australiani il tempo ce l'hanno, quindi sono sempre di buon umore, hanno tempo, e poi è un posto in cui funziona tutto, che ha due aspetti, i due lati della medaglia. Un lato della medaglia è che è estremamente noioso, perché... cioè è imbarazzante quanto possa essere noioso un posto in cui funziona tutto. Un po' di noia. Però l'altro lato, sperimentato sulla pelle, è che è un posto in cui funziona tutto, ti alleggerisce la vita. Cioè, faccio proprio un esempio pratico. Io mi sono iscritta alla mutua in Australia perché c'è un accordo tra l'Italia e l'Australia che mi consentiva di accedere alla mutua australiana. Allora, per iscrivermi alla mutua in Italia ci sono voluti 2 giorni, ho preso un certo numero di cavolo di numerini, sono andata in un certo numero di uffici, ho dovuto aspettare che mi mandassero delle cose. In Australia l'ho fatto in 30 minuti, in un posto che quando sono entrata ho pensato: no vabbè, ma questo qui deve essere l'ufficio del vice primo ministro, invece era il corrispettivo della ASL australiana. Cioè, meno male, hanno i soldi, meno male. Ecco, via Andrea Doria non era esattamente come via Andrea Doria. Che cosa succede? Che se in Italia ci metto 3 giorni e in Australia ci metto 30 minuti, è ovvio che poi in Australia ho più tempo. Anche un po' più di leggerezza d'animo, se ne dico altro, sì. Quindi, e anche poi questo aspetto per il quale io li prendevo in giro, che dicevo sono sempre di buon umore, è vero, c'è una fortissima superficialità, l'abbiamo detto, sono un po' dei semplicioni, diciamo. Però vivi 9 mesi con delle persone che ti fermano al semaforo, ti fanno un sorriso e ti dicono che bella giornata è oggi, vivi 9 mesi... in un posto in cui ti calpestano i piedi e ti... Io non do giudizi né da una parte né dall'altra. Se io in Australia non ci sono stata, io lo dico perché non m'han voluta, perché io ci sarei stata, però il visto non me l'hanno dato e quindi sono tornata. Secondo me dopo... Raggi X. C'ho qualcosa al petto? C'ho qualcosa al petto. Però... la leggerezza che ti dà un sistema in cui funziona tutto è un aspetto sul quale io non avevo mai riflettuto, perché non mi ero mai resa conto di vivere in un contesto in cui invece... Cioè, lo sai che è un po' complicato, ma fino a quanto non vedi l'alternativa. Quanto... Esatto. Non ti allora, a quel punto subentra il discorso che faceva prima Barbara, della rassegnazione. Forse anche noi siamo rassegnati alle cose che non funzionano, ok? In qualche modo potrebbe essere. Nel momento in cui poi vediamo invece lo stacco con quando le cose funzionano e ci immaginiamo in quel contesto lì, diciamo, però Ah, è così che è il mondo quando le cose funzionano? Poi manca il pepe, per carità. E manca le radici, perché se integri le tue radici non sono lì. Eh sì, è quel bagaglio di cui parlavamo prima. Esatto. No? Io devo andare, però spero che ci sarà, cioè perché abbiamo toccato solo io tre. Siccome so che sono più di due. Grazie. Grazie per essere venuta. No, dicevo Giulia, questo perché ne poi ciao. Un discorso più lungo, ma tu pensi che si possa, cioè emotivamente è inevitabile farlo, ma che davvero si possa confrontare la leggerezza o la pesantezza, il funzionamento o non funzionamento di un paese da una situazione soggettiva così diversa, cioè non bisognerebbe per sapere com'è vivere in Australia o come vivere a Milano, viverci. Fare lavorare nell'editoria australiana piuttosto che fare l'insegnante o avere da portare libri a scuola, perché inevitabilmente c'è qualcosa puoi cogliere, no? Sì. Però in realtà per fare un confronto tra com'è la vita in un paese e in un altro bisognerebbe, non pensi anche da quello pure come domanda, che in realtà l'unico modo sarebbe viverci. Provare a vivere, sì, assolutamente, dello scolaro, dell'impiegata, della scrittrice, non lo so, sì, del coltivatore di pecore, che non so. Però è bello, romantico. Ah, no, bro, è esatto. Quindi è sempre, non so, magari dice no, magari uno effettivamente basta andare in ufficio e nel mondo anglosassone però credo che sia veramente difficile. Sono assolutamente d'accordo con te. Però non ha come 27 vite, è quello. Presenti un libro a Milano e un'altra presente. Tutto in contemporanea. Un libro di viaggio a Melbourne. Boh. Presentare davanti a un piccolo gruppo di adolescenti, per esempio. Che però, non ho visto un cazzo che non però tu gli hai spiegato il 25. Mamma mia, sì. Hola. Chiudiamo con il 25 aprile. Vai. Quando eravamo a Tiwi, che è quest'isola di cui parlavamo poco prima, cadeva il 25 aprile, che è la seconda festa nazionale in Australia. Un sacco di feste nazionali. Due. Il 25 aprile, ma anche il Portogallo festeggia. Ah sì, la rivoluzione dei Garofari. Noi eravamo a scuola e quindi quando eravamo nell'aula degli insegnanti, gli insegnanti ci dissero: allora il 25 aprile abbiamo un programma per il 25 aprile, quindi c'erano le celebrazioni, c'era a scuola lo stesso, però c'erano le celebrazioni del 25 aprile, c'era il discorso, c'era non mi ricordo che cosa, e io lì dissi: beh, però il 25 aprile è un giorno importante anche per l'Italia, posso parlare anch'io? E loro mi guardarono dicendo: ma sei sicura? Guarda che sono tanti, perché i ragazzi erano tanti e poi c'erano anche tutto l'apparato parascolastico che era numero. Io dico, sì, non c'è problema, no, 25 aprile è importante, io voglio parlare in Australia. Sei sicura? Sì. Ti mettiamo nel programma? Va bene. Va bene, allora vieni a parlare alle 5 e mezza, ti mettiamo tra l'introduzione e lo sport fondamentale. Quindi, ok. E lo sport. Ho vacillato quando mi hanno detto, hai capito che sono le 5 e mezza del mattino? Perché il posto era un posto tropicale, in cui faceva un caldo esagerato, e siccome il clou, e questo anche da un po' la misura del paese, il clou del momento della celebrazione del 25 aprile era che i ragazzi facessero sport, e non potevano farlo dopo le 6 del mattino, e quindi mi hanno fatto parlare alle 5 e mezzo. Sulle 5 e mezzo ho vacillato, però insomma poi la semplificazione di cui parlavamo prima mi sa che non vale più, ok? Però poi questa cosa l'ho fatta e ho cercato di raccontare in una maniera che potesse, cioè ho cercato di calarmi nel pubblico che avevo davanti per raccontare che cosa è stato il 25 aprile per noi, certo. Per noi. E ho anche il video, non si vede niente perché è buio. Però devo dire, a me ha dato grande soddisfazione. Le persone che poi sono venute a parlare con me mi hanno detto, ovviamente non ne sapevo niente, però questo, cioè, non lo imputo all'ignoranza dell'Australia, ma perché è una storia Che è veramente... Anche noi delle feste nazionali dell'Australia fino a poco fa. Sapevamo un po'. Quindi ci sta. Però io sono molto contenta di aver portato a Tiwi la resistenza italiana. Quindi... ci sta, ma perdonami un passaggio indietro. Io mi sono persa la festa nazionale invece per loro? Sì, non ti sei persa, che volutamente non l'ho detto, perché è una cosa che lei ride perché lo sa, perché è un aspetto un po' paradossale, okay, secondo me, nel senso che è festa nazionale che si riferisce al 25 aprile del 18-19, prima guerra mondiale, 17. Okay. Battaglia, okay, di Gallipoli. Ed è paradossale, ed è, perché questa battaglia, cioè, è stata persa. Allora, è stata la prima battaglia in cui un battaglione australiano è stato chiamato dagli inglesi a combattere. Quindi, okay, per loro, okay, è stato l'ingresso in Europa. Okay. Quindi è festa nazionale, però hanno perso. Ok. Hanno perso. Tra l'altro erano contro gli italiani indirettamente, perché erano, certo, beh, no, sì, no, il 17 no, era già, no, era il 17, no, l'Italia era già passata, era già passato, ok, vabbè, nel dubbio sport, nel dubbio, sì, che comunque, sì, fa, sì, sempre bene, male, questa già era una sconfitta. Secondo me non è male. Festeggiamo sempre solo le vittorie, ma anche dalle sconfitte. Assolutamente, assolutamente. Va bene, va bene. Se ci sono altre domande, fame adesso, sete, sì, un po', un pochino. Grazie mille, è stato un piacere conoscervi. Grazie e a tutti. Parlare. Grazie. Grazie. Anch'io.